Questo Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. È lo spazio domenicale di Ristoradio Convento, la web radio del convento di Nonato del Garda. Ovviamente una buonasera a tutti da Master Nick. Come già accennavo all'inizio di questa serata, solitamente non apriamo questo spazio in questa serata, ma abbiamo deciso di dare giustamente più voce ai nostri ospiti, ai nostri amici, ormai ex clienti, perché ormai sono tutti amici, quasi compagni, quasi fratelli o cugini, e quindi vogliamo implementare questo spazio e dare a loro più voce. E apriamo le nostre porte, accendiamo le nostre luci, come diciamo sempre, anche durante l'ultima serata della settimana, che c'è ancora da capire se è la più felice o la più triste, dipende un po' come la vivi. Partiamo con un giovanissimo cliente, un giovanissimo amico. Allora, benvenuto. Buonasera a tutti, sono Mattia dalla provincia di Verona. Oh, bene, bene, Mattia, benvenuto. Quanti anni hai? Che sei giovanissimo. Ne ho 33. Ah, 33, vedi, quindi età importante, ne senti peso? No, dai, siamo riposto che... bene, dai, ne dimostro qualcuno. No, al di là di quello, esatto, sai che però si dice sempre il discorso dei 33, no, non ne senti il peso. No, no, bene, qualcuno la battuta te l'aveva fatta però, no? Sì, gli anni di Cristo. Sì, te l'avranno fatta in 200, in 200, bene, bene. La tradizione viene rispettata. Verona, Verona, no, mi dicevi prima provincia, giusto? Provincia da Sona. Sona, ok, no, perché a noi piace sempre comunque ricordare anche i paesini, che tanti dimenticano, no? Perché Verona è bellissima, ci mancherebbe altro, però è giusto, come dire, sottolineare i localismi anche e renderli importanti. Allora, Mattia, prima volta che ci vieni a trovare, sei un abitué? Prima volta. Ah, ok, bene, bene, allora benvenuto. E chissà che impressione ti ha fatto, o meglio, che botta di adrenalina positiva o negativa ti ha dato questa serata. E cosa ti ha portato qui, o meglio, con chi sei venuto? Sono venuto con degli amici e ho detto proviamo il convento questa sera su consiglio di passaparola di altri amici ancora. Ah, ok, quindi debutto per tutti? Debutto per tutti. Oh, bene, bene, come sta andando la serata, come vi trovate? Dai, molta adrenalina, bella la cena, tutto bene, musica divertente. Bene, bene, dai, allora tutti gli elementi buoni per essere soddisfatti. Che tipo di compagnia siete? Cioè una compagnia a cui piace uscire, a cui piace partecipare a questo tipo di serata, o più divano e Netflix, cinema, no, cenetta romantica, cioè no, romantica nel senso cenetta informale, così come staioli, sì, serata, discoteca. Quindi nonostante l'età avanzi mantenete, no, la voglia di restare giovane e di festeggiare. Anzi sì, dici, finché 30 anni si festeggia ancora di più. Esatto, esatto, dici, finché regge la mente e il fisico, noi andiamo avanti. E fai bene a fare così. Allora, tra l'altro, mi accennavi prima che fai una professione un po' particolare per quanto riguarda l'uomo, no? Perché solitamente è una professione prevalentemente femminile. Vuoi parlarcene un po'? Sì, sono parrucchiere, ho un negozio da 12 anni a Bussolengo. Ah, quindi tuo? Sì. È sempre stato di proprietà tua? Ah sì, da quando ho cominciato sì. Però scusami, se la matematica non è un'opinione, 33 meno 12 fa più o meno 21, 20, sì, 21. Sì, ancora 20, comunque. Quindi è un bel rischio. Sì. Ma hai deciso tu o te lo sei trovato, insomma, hai trovato un'occasione? Lavoravo come dipendente, dopo c'è stata l'occasione giusta, quindi l'ho colto. Ah, quindi eri già dipendente? Già dipendente da 4 anni. E hai deciso di fare questo salto? Il grande salto. Proprio, complimenti, complimenti. E come sta andando? Beh, immagino bene, perché insomma, si va avanti da 12 anni. Però ecco, facciamo così, neanche fossimo Enrico Ruggeri al bivio, torneresti indietro ai 12 anni e rifaresti la stessa scelta? Rifarei la stessa scelta. Cioè ti prenderesti ancora lo stesso rischio? Responsabilità, sì. Sì? Perché? Sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché il mondo si divide in due, cioè quelli che hanno voglia come te, come dire, di prendersi dei rischi, e quelli che avrebbero voglia di prenderli ma hanno paura della responsabilità che comporta e dell'impegno, insomma, che questo comporta, e preferiscono una vita un po' più tranquilla da, passami il termine, dipendenti. Certo. Questo non per dire che sia meglio una o l'altra strada, ma che proprio distingue le due persone e le due tipologie di persone. Ti ho fatto questa domanda appunto per capire se magari a 20 anni si ha l'entusiasmo della, come dire, di provare un qualcosa, però magari a 33 con un po' più di saggezza mi confermi però che avresti rischiato comunque. Sempre rischiato comunque. Beh, sì, quindi avevi questa indole imprenditoriale. Ho iniziato già il lavoro da 14 anni, quindi già comunque un certo bagaglio di esperienza. Insomma. E dimmi un po' da dove nasce questa passione, di famiglia o dai? Non ho nessun familiare parrucchiere, okay, parrucchiera, quindi è proprio una cosa mia anche. E da quando più o meno è partita? Da che età? Dalle medie. Dalle medie? cominciato a appassionare al mondo dei capelli. Ma così, dal nulla? O boh, magari che ne so, leggendo riviste? Ispirandomi sia dei parrucchieri, delle storie così di parrucchieri partiti dal nulla, così che hanno costruito negli anni. Ma cos'è stata la prima scintilla? Cioè, quello voglio capire, perché tanti, che ne so, banalizzo, mi piace suonare la chitarra, ma ho visto suonare un maestro, ho visto suonare a un concerto e mi ha affascinato, quindi c'è sicuramente una scintilla. La tua qual è stata? Quella creativa, proprio quella voglia di vedere un po' in TV, sui giornali. Sì, sì, ma ricordi il momento in particolare in cui è partito tutto? Perché l'indole creativa la puoi esprimere nella pittura, sì, nella scultura, perché proprio quel mondo? Da cosa è stato quell'elemento, quel momento che ti ha fatto dire questo è il mio mondo? Se dal mio barbiere o da... Vedi? Sì, ho visto qualcosa che mi poteva ispirare, vedi, c'è qualcosa. No, una piccola scintilla. Appunto, chiedevo perché, come sai, non frequentando la zona da parecchi anni, era per capire, esatto, appunto come stava andando. E a proposito del mercato, diciamo così, cosa ci puoi raccontare? Cioè, cosa chiede la gente? Chiede voglio assomigliare a, o ha delle idee ben chiare e più personali? Più una cosa personale, sto verso appunto una moda sempre più personalizzata, sì, okay, da pensare a pennello, insomma, su una persona. Sì. Quindi non c'è più voglio assomigliare a Bene Rodriguez o a Mario Balotelli, insomma, non c'è più quella. Ok. Ma è rimasto il taglio magari un po' spregiudicato, come dire, il taglio spregiudicato, tipo, non lo so, pieno davanti e poi con le righette dai lati, cioè qualcosa. È rimasto? Qualcosa è rimasto, sì. Ma vedi anche persone di una certa, come dire, un certo rango sociale che fanno queste cose, o sono sempre magari un po' alternativi, artisti? Sì, più artisti alternativi. Infatti, perché magari in ufficio ancora non è che sia ben visto, ben visto. Ok, vuoi mandare un messaggio, vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa? Saluto tutti i miei amici, i miei clienti, tutte le persone che mi vogliono bene. A proposito, diciamo le cose importanti, come si chiama il negozio, dove ti troviamo, se hai una pagina, un sito? Certo, trovate su Facebook con la pagina professionale, Styler Studio Unisex di Fabioli Mattia. Unisex significa che tagli solo? Uomo, donna. Ah, scusa, hai detto unisex. Ah sì, Giuseppe, giustamente, perdonami. Come vedi, uomo per donna. Non sono ferrato nel campo, quindi capisci che può essere un po' imbarazzante. Ok, quindi sia uomo che donna, bravo. E quanti hai dipendenti, quindi, più o meno? Sì, uno. Ah, un solo, riuscite a gestirla in due? Sì, gestire con appuntamento, è un lavoro molto organizzato. Ah, selezionato. Bene, bene, allora noi ti auguriamo in bocca al lupo e magari potrai trovare ispirazione anche nelle altre persone in pista, per qualche nuovo cliente, e speriamo che questa tua passione forte ti possa continuare a contagiare per tanti tuoi anni. Allora, buona festa, buon ballo, visto che tornerai sicuramente a ballare. Vieni a trovarci presto. Va bene, volentieri. Speriamo in un bis. Dai, speriamo in un bis. Grazie ancora Mattia, buona serata e alla prossima. Ciao. Ciao. State ascoltando Ristoradio Convento.